stare zitto è buono. Loro mi dicevano tranquillo, cambia tono. Loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto come te, Letizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto e all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedevo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu m'hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se richiami domani. Loro mi dicevano di stare sui binari. Loro mi dicevano rispetta questi orari. Loro mi dicevano stai con i piedi a terra. Loro mi dicevano è giusta questa guerra. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, ho anche lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto, e faccio troppi cazzi senza avere il biglietto. Domani smetto, è meglio che richiami domani. Loro mi dicevano non calpestare l'erba. Loro mi dicevano non coltivare l'erba. Loro mi dicevano ma che vestiti porti, e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti. E non lo metto il casco omologato, non metto dietro la mia identità. Ho fatto il bagno, dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, ho anche lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto, e faccio troppi viaggi senza avere il biglietto. Domani smetto, è meglio se richiami domani. È una tipica espressione della vocalità, del leggio del canto all'italiano.